Sì. CQ10, CQ10, qualcuno all'ascolto? Avanti, avanti. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera, buonasera. Buon pomeriggio inoltrato, dai. Ciao Gian. Ma sei attaccato? Yes, come ti sto arrivando? Ti sgamo subito, da deformazione professionale, da tecnico audio, me ne accorgo subito. Così va, ma va bene la voce o è schiacciata? Vabbè, quando attacchi è un po' compressa, dai, comunque già è comprensibile, non è fastidiosa, dai. È meglio così, infatti io ho sentito questo beep e l'altra volta non ce l'avevi e quindi ho detto chi sarà, chi non sarà, tu mi arrivi fondo scala. Ok, ti accontento, ti metto il beep. Ok. Anna bene, mi ero qua al computer. Ascolta, dato che ci sono, voglio fare una prova. Adesso vabbè, la batteria è già di quelle alcaline, è ancora in buone condizioni, la batteria del microfono. Lo sto tenendo a una distanza 5-6 dita dalla bocca. C'è il cursore dell'amplificazione a metà. Adesso magari il prossimo passaggio lo metto a manetta e mi dici se secondo te cambia qualcosa, ok? Quindi questo è il passaggio col cursore dell'amplificazione a metà. Il prossimo lo faccio con il cursore a manetta, mi dici qual è la differenza, in pro o in contro? Vai, ho sentito l'ambulanza sotto, Ok, adesso il cursore del gain del microfono è tutta manetta. Mi dici se c'è qualche differenza apprezzabile oppure ha peggiorato? Mi sembra che è aumentata la radio, capito? Il segnale mi arrivi a 9 fondo scala. No, il segnale, la modulazione, cioè la potenza uscita è quella, no? Parlo proprio dell'audio, della radio. Se è aumentato qualcosa rispetto al passaggio precedente. Sì, la radio è aumentata, la radio è più dura, no? Più potente, ma bella, comprensibile, chiara, capito? Dal passaggio di prima è migliorato. Quindi mi dice che c'è stato un leggero incremento, ok, non è che ha peggiorato la cosa, no? No, assolutamente no, ha migliorato, infatti come è attaccato mi sembrava più forte, invece era più chiara la voce, capito, più squillante. Ok, dai, perché generalmente, ho sempre tenuto a metà il cursore della preamplificazione del microfono, adesso ce l'avevo sotto il naso e quindi ho detto proviamo un attimino a vedere se tirandolo tutto su ne guadagna oppure peggiora. Vai, tu mi stai confermando che il volume della modulazione è leggermente più alto, quindi non ha arrecato danni, dai. Allora vuol dire lo lasciamo così, se non rompe gli sguevos a chi ascolta. È perfetta, lascia anche tutto così, è perfetta così. Va bene, dai, allora lo lascio così, qua ci sono i picchi positivi, vedo l'aghetto che è allegro, che si muove e va tutto bene, dai. E alla grande, se lasci tutto così va benissimo, non c'è nessun problema, capito, la radio è ottima. Bene, dai, la mia piccola stazioncina con la boomerang sul tetto fa la sua sporca figura, il 27, dai, piccolina, però come la zanzara. E guarda, io sono ancora più piccolo della zanzara, io sono un moscerino, capito? Quello che mi aiuta un pochettino è che sono in una zona un pochettino più alta rispetto a dove sei tu, però io ho l'antenna proprio sulla ringhiera, capito? Io sto uscendo con l'antenna della macchina. Io provenista da una parte alta, a distanza già la vedo a vista, cioè si vede dal terrazzo, quindi figurati tu. Siamo a tiro di binocolo. Esatto, sì. Però dai, la, il segnale è buono, nonostante tutto riesco a parlare insomma un po' con tutte le parti della città, mi sente anche Claudio che insomma lui è su, capito? Magari non gli arrivo fortissimo, gli arriverò 7-8, capito? Più o meno, capito, sono comprensibile per adesso così, appena avrò la possibilità che trovo la persona, perché non ci voglio andare in maniera prepotente, tantomeno apposta per far vedere che io chissà, invece voglio entrare un po', non a gamba tesa, ma piano piano, usando un po' la diplomazia, magari se c'è bisogno di qualcosa salgo sul tetto con qualche scusa a vedere e poi, capito, a quel punto guardo se c'è la possibilità di metterla, chiederò. Ok, ma hai ostacoli davanti oppure nel senso l'antenna ha ostacoli davanti oppure hai praticamente l'orizzonte libero? Una parte di orizzonte libero ce l'ho, una parte, poi da una parte all'altra ci sono i palazzi, capito, però diciamo evidentemente le onde riescono a salire anche un pochettino in alto. Ok, no vabbè, basta entrare in punta di piedi, tranquillo, rilassato. Signori, io devo montare sull'antenna, quindi vi informo che devo installare l'antenna per la mia stazione radio, quindi siete informati e niente, tutto verrà fatto secondo criterio e secondo le norme, e quindi questo è quanto. Cioè non è che c'è poco da dire, no? Cioè, in effetti è così e basta, poi giustamente cazzo, cortesia e rispetto per i condomini, insomma, e anche per, insomma, del terrazzo che sicuramente sarà in comune, penso. Esatto, no, il terrazzo purtroppo non c'è un accesso diretto e se no sarebbe stata già piazzata, capito? Io avrei piazzato tutto e poi avrei comunicato a cose fatte, tanto avrei detto è tutto a norma, eccetera, e basta. Invece purtroppo è che devi salire dal terrazzo della proprietà privata, capito? Io conosco anche la persona, ma capito, siccome sono cose un pochettino, uno si dice ma cosa mi metti sulla testa, sai? Persone hanno mille pregiudizi, capito, e poi siamo circondati da fonti ripetitori telefonici e quant'altro, capito? No, pensavo che ci fosse praticamente, che il terrazzo fosse calpestabile, e quindi insomma ho dato per scontato che fosse calpestabile, quindi per l'utilizzo di tutti, insomma. Dai, vabbè, comunque chiedere una cortesia per il passaggio non costa nulla, poi giustamente non sei uno sprovveduto, quindi quando vai a parlarci gli dici guarda che devo installare questo e quello e quell'altro, è praticamente tutto omologato, tutto a norma, non crea disturbo, a parte che praticamente le televisioni sono, oramai viaggiano sul digitale, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di interferenza tra i due sistemi, quindi cioè, chiaro, schietto e sincero, capito, ma non penso ci dovrebbero essere problemi, ok? Sì, e infatti quelle sono le cose da dire subito, che non c'è nessun problema di interferenza, perché sono due cose completamente diverse, insomma frequenze diverse, una è digitale, l'altra è quella classica, per cui la gente la devi un po' tranquillizzare, capito, usando un po' la diplomazia e entrando in punta di piedi, altrimenti, capito, invece diverso era dove ero prima, che accedevi al terrazzo dal vano ascensore e io avevo le chiavi perché mi avevano, diciamo, nominato responsabile un po' di locale autoclave e tutto quanto, capito, era un factotum là, e quindi anche l'amministratore mi chiamava, guarda che arriva il gasolio, controlli lei, qua e faccia questo, riempivo l'aria nel polmone del sistema autoclave, quando cambiavo i filtri del pescaggio del porto, facevo tutto là, quindi avevo facile accesso, capito? Qua invece la situazione è diversa, per accedere devi bussare a casa di un privato, quindi capisci che è un pochettino più in salita il percorso. Vabbè, chiedere illecito e rispondere cortesia, insomma, voglio dire, non costa assolutamente niente. No, io qua su, sono all'ultimo piano, il terrazzo è calpestabile, quindi non ho fatto altro che agganciare l'antenna al palo della mia antenna TV. Ho messo solo un palo più lungo, così ho messo l'antenna in punta e l'antenna TV nello stesso tubo, per cui c'erano già le staffe montate in precedenza, non ho fatto altro che piazzare l'antenna, cioè cambiare il tubo, mettere l'antenna in punta e poi rimettere a posto l'antenna della TV. Non ho mai rotto le scatole a nessuno, a parte che la potenza veramente irrisoria e ridicola dell'apparecchio non ha mai creato disturbo a nessuno dei condomini qua dove abito, dai. Quando è così va bene, dai. Comunque la boomerang già per la città e anche fuori dalla città già va bene. Se becchi la propagazione riesci anche a viaggiare con la boomerang, perché comunque è sempre un'antenna esterna, è messa sul tetto e quindi se becchi la giornata giusta, capito, anche con quella ti diverti. A voglia, già me ne ho fatte alcune chiacchierate fuori, dai, a parte con il resto dello stivale, e anche all'estero, dai, qualche chiacchierata, allora mi pare, cos'è, l'anno scorso, un paio di anni fa, ho parlato con la Svizzera, con Aosta, poi cos'era, adesso non mi ricordo se era Vercelli, la parte nord-est, credo che fosse zona di Verona, Venezia, insomma, e poi vabbè, credo l'estate scorsa, due estati fa, anche con la Puglia, la Sicilia, poi a parte le Canarie, Baleari, gli spagnoli, Portogallo e tutte cose, dai, e poi anche qualche piccolo contatto con l'Inghilterra, dai, considerando le condizioni in cui sono, è stato soddisfacente, dai. Capisco, sì, abbastanza soddisfacente. Invece in precedenza io collegamenti ne ho fatto tanti, Spagna, Baleari, Stati Uniti, capito, ne ho fatto la Russia, Norvegia, Francia, Germania, insomma Austria, chi più ne ha più ne metta. Quando c'era propagazione ero ancora più in alto di qua, ma in particolare avevo un'ultima antenna, avevo la J-Pol, capito, e quella è una 7 ottavi d'onda, molto, molto lunga come antenna, messa su un palazzo di 6 piani, capito, sopra l'antenna non c'era nessun ostacolo, addirittura da lì vedevo proprio tutto il Golfo della Dinara, e poi senza propagazione arrivavo praticamente Bonnannaro, Ozieri, Mores, capito, tutta quella zona lì, Castelsardo, capito, Alghero, capito, con segnali anche forti, ovviamente attaccavi un pochettino, arrivavo Santiago 9 ad Alghero, capito, e con quella mi sono divertito parecchio e purtroppo poi è finito il gioco perché mi sono dovuto spostare e adesso sono in questa situazione qua, già, capito. Ehi, c'è qualcuno sotto che fischia, chi è che è entrato nel 10, avanti? Brecche! Avanti, breccade, breccade! Salutoni circolari a tutti, Daniele da questa parte, non so chi sei perché sta arrivando Pio Pio. Ciao Daniele, Lubrofletta, zona stazione, altro Pio Pio, ciao Daniele, tu a posto? Sono in compagnia di Carlo, avanti Daniele. Chi sei, Lubrofletta? Affermativo. Carissimo, buonasera, ben ascoltato dopo tanto tempo. Dai, ogni tanto riaccendiamo, dai, ti sento una modulazione diversa da quello che mi ricordo, ma hai cambiato QTH? Campa di Rosma, però io sono agghiacciando adesso, dai, in collina, quasi montagna, e niente, dai, era giusto a salutarti, tra l'altro dico lo sento a caso. E niente, dai, riprendete il QSO e sentiamo dopo se coincide, dai. Ehi, allora, qua mi stai... Non ho capito da dove ti trovi, questo momento comunque mi dici, qua il segnale Santiago 7 e Radio 4, dai, giusto per darti un rapportino veloce. Non so se Carlo ti ascolta, avanti Carlo. L'ho sentito, ho dovuto regolare lo squelch, l'ho messo basso basso, si sentiva pio pio, però io sai come sono nella situazione, quindi molto probabilmente dipende da me che non lo sento. Ok, Daniele, sei ancora? Ehi, dimmi tutto. Non ho capito, mi hai parlato di collina, però non ho mai detto più o meno a grandi linee dove ti trovi. Se è possibile saperlo, attenzione. Città di Itiri sono. Ok, allora da casa mia Itiri praticamente lo vedo, insomma, in lontananza lo vedo sulla mia sinistra, dai, quindi va bene, dai. Arriviamo anche a Itiri, mi dici, mi dai un rapportino di segnale di radio? Guarda, sì, Santiago 3 e Radio 3, è abbondante, dai. Il segnale è un po' bassino, cioè a livello di QRM, quindi non superi di un pelo. Va bene, dai, considerando che sto uscendo con 7 watt. Va bene, Daniele, dai, non so se ti trattieni. Io, vabbè, mi tratterò 10 minuti e poi vado via. Carlo ti sente P.O.P., vabbè, è in condizioni un attimino non definitive, perché ha un piccolo antennino, quindi ti ascolta proprio in mezzo al QRM. Cappa di Roma, dai. Va bene, dai, io vi lascio, buon QSO e alle prossime se coincide, dai. Ok, bella Daniele, dai, salutoni, ci si sente prossimamente, ok, dai, buon proseguimento di serata, avanti Carlo. Sì, buonasera Daniele, l'ultimo passaggio quando hai dato il controllo a Gianni, se non sbaglio hai detto Radio 3, Segnale 3, insomma, già ho sentito QTH Itiri, ti sento piano piano ma ti sento, sono riuscito a sentirti, quindi non so se lui riesce a copiarmi. Daniele, dammi conferma tu, Gianni. No, credo che abbia staccato Carlo. Vabbè, non fa niente, dai, spero che mi abbia sentito, con i saluti soprattutto, nel caso poi già si rifarà sentire Daniele da Itiri. Eia, infatti mi ricordavo, insomma, le ultime volte che ci siamo sentiti, credo che fosse qua in città, alla zona di Via Italia, penso, adesso non mi sfugge, non sapevo che avesse cambiato QTH, dai, comunque va bene così, dai, arriviamo anche a Itiri, pio pio, QRM permettendo, vabbè, con il watt della radio, sono circa 7 oscillanti a 8, dai, mentre parlo, vabbè, questo è quanto dall'apparecchio, il Super Joe Pix, che dovrebbe essere il clone del Galaxy, ne sono usciti una maniera di Galaxy, vabbè, non mi ha mente, comunque, è praticamente la fotocopia. sì, ho capito, ma già vai benissimo Gianni, lascia tutto così. Per le quattro chiacchiere è ottimo, come dice qualcuno, ottimo per la truffa. Io mi sempre al computer trovando, adesso mi è arrivata una mail, capito, la pubblicità, mamma mia, non se ne può più, tra numeri spam e pubblicità che ti mandano, non ne usciamo più. Guarda, lascia perdere che arriva tanta di quella spazzatura, phishing, a me email con avvisi improponibili da indirizzi improponibili, pacchi in arrivo, acquisti da confermare, conto banca intesa da confermare, cioè email dei carabinieri, di indagini, convocazioni, guarda, di proprio di tutto, cioè proprio da indirizzi assolutamente improponibili. Mamma mia, infatti. L'unica cosa, infatti una persona mi ha detto, guarda, l'unica cosa è che cambi scheda telefonica col numero, e io ho detto, ma poi un casino anche per il lavoro, io questo contatto ce l'ho, capito, per tante persone, capito, miei figli, eccetera, quindi mi toccherebbe, insomma, dare a tutti il numero, e poi per alla fine, capito, sei di nuovo punti a capo, perché poi se fai l'errore di dare il numero a qualcuno che poi lo passa a società terze, se le passano da uno all'altro, sei di nuovo punti a capo, tanto vale così rimanere. Speriamo facciano una legge piuttosto che vieti proprio chiamare tutti i numeri, che la smettano con questi call center, tanto la gente ormai chiude, capito? Quindi già, sono cose che non servono più a nulla secondo me. Poi lascia perdere, mi sono accorto adesso che avevo il selettore del bip del microfono inserito, vabbè adesso l'ho tolto, magari era anche fastidioso perché c'era anche il bip della radio. Sì, no, fastidioso non era fastidioso, per carità. E di fastidi sono altri per la radio, gente che magari fa rumori e non entra, mette le portanti, quelli sono i fastidi, poi quelle cose già, insomma, si possono tranquillamente sopportare. No, me ne sono accorto adesso, ho visto che avevo siccome c'è il tastino in basso sul frontale, evidentemente come l'ho preso inavvertitamente l'ho inserito, vabbè, non è successo nulla. Non è successo nulla. Cosa ti volevo chiedere? Ah, ecco, vabbè, a livello così di... Avevo fatto l'esperimento con un'antenna che aveva acquistato Marco Condor qualche anno fa. E praticamente appena gli era arrivata mi ha chiesto la cortesia di montarla per fare un test, per vedere se secondo le indicazioni che proponeva il venditore questa antenna offriva dei vantaggi rispetto alla boomerang, una 5 ottavi l'ho montata e praticamente non ho trovato differenza, è insorta e l'ho tenuta una settimana, 10 giorni, ho visto che non è cambiato assolutamente niente e l'ho ritornata al legittimo proprietario, ma in sostanza non è cambiato assolutamente nulla e quindi ci ho rimesso la boomerang e andava così. Sì, infatti, sì. E molte volte, capito, la prima è quella che ti soddisfa di più. Oh, uguale. L'unico problema che avevo praticamente lo stelo che va in punta praticamente era infilato in una sorta di piccola barra filettata in ottone, che poi alluminio l'ottone con gli agenti atmosferici praticamente si è ossidato e poi si è rotto e quindi ho dovuto fare un accrocchio, ho dovuto fare una sorta di innesto, ho preso un tubo di rame di quelli che si usano per il condizionamento, l'ho intestato alla base della lunghezza di 15 cm e quindi 7 cm per la base, 7 cm gli ho dedicati per il radiale che va in punta con degli spessori e poi ci ho messo delle fascette. Ho capito, insomma, un bel da pentu, come dicono a Sassari, ti sei preso. E vabbè, sperimentazioni che servono sempre. Infatti, non per altro, capito, noi siamo citizen band, banda cittadina, però molti di noi in passato lo sono stati, poi sono diventati, facendo questi esperimenti, radioamatori, appunto perché, insomma, ci si mettono d'impegno e prova che ti riprova, poi impari tante cose, già va bene. Capo, dai. Io faccio un altro passaggio, Carlo, poi mi devo spostare che c'è da sbrigare una cosa qua in casetta, dai. Magari se riesco a finire prima rientro, ok? Ehi Gianni, siamo qua, non ti preoccupare, io mi sono in relax, qua seduto sulla scrivania, c'ho il computer col monitor grande da 27 pollici, l'ho preso nuovo pochi mesi fa, 3-4 mesi fa l'avevo preso, è un Asus di quelli only one, giusto per fare, per dirti qualche chiacchiericcio, ed è perfetto perché praticamente hai una bella visuale, e quindi la radio me l'ho messa a fianco perché ho il terrazzo vicino in camera da letto, capito? Quindi il filo è buttato sul pavimento del terrazzo, mi entra sotto la porta, vicino alla scrivania, neanche si vede, capito? Sono qua, grazie del QSO, dai, delle chiacchierette che ci siamo fatti, quando ti va di entrare anche più tardi io rimarrò in ascolto, poi senza qualcun altro. Ci uscirà qualche altra chiacchierata stasera, Gianni? Tutto qui, va bene, grazie mille, allora risentirci se hai da fare e alle prossime, Gianni. Ehi, a Carlo, sì, devo sbrigare roba, se no mi sarei trattenuto volentieri, dai, casomai se riesco a terminare un po' prima faccio un'altra chiamata, ok, dai, buon ascolto e niente, dai, magari ci si sente più tardi, ok? Ciao, Gaero. Ciao, ciao, alle prossime. Attenzione 10. Hola. Ciao Gianni. Quindi, ciao Carlo, beh, come va? Stasera casalingo, a riposo. Va bene, dai, ogni tanto staccare la spina fa bene. Oggi sono rientrato intorno all'1:30, ho pranzato, mi sono riposato un pochettino in attesa del turno di domattina, però non avevo niente da fare, più tardi mi preparo un po' la cena, e se non sbaglio c'è la nazionale, se non ricordo male, oggi. Non lo so, Carlo, io non le guardo mai le partite, non sono molto sportivo su questo punto qua, non le guardo, e vabbè, comunque, per chi piace va bene, dai, ognuno ha i suoi gusti. E infatti io ne guarderò un pezzo, poi se mi viene il sonno e vedo che è tardi me ne vado a dormire, perché domani mattina mi sono presto la sveglia. Ma che bella radio che c'è, con che apparecchio stai uscendo? Come già? Che è una bella radio, ho detto, con che apparecchio stai uscendo? Quello President CB, quello piccolino sto usando sempre, che è più pratico qua per la scrivania. A te c'è bene, è molto chiara la radio, me la presento. E per fare le quattro chiacchiere cittadine, diciamo, per adesso mi sto trovando benino, dai, non ho molte pretese. Ma tu non c'avevi anche quello, non mi ricordo cosa era, quello che tu avevi aggiustato, che c'era l'interruttore che non funzionava? Sì, quello l'avevo messo a posto, me l'aveva aggiustato Albino e poi l'avevo venduto, e poi mi ero preso quello CTR il 9009. Ah, e quello non l'attacchi mai? L'ho attaccato, scusa che è partita la pubblicità sul computer. ho visto che è mollato. L'hai attaccato qua? Sì, quello l'ho attaccato qualche giorno fa, già funziona sempre, adesso per questione di praticità ho messo questo più piccolino e ovviamente sono attaccato così, eh. E io oggi sono un po' abbacchiato, dovevo andare alla Conad che via Valdetta hanno aperto la Conad nuova e c'erano degli sconti, c'era il latte 89 centesimi, la ricotta lo stesso 49 centesimi, e insomma c'erano tante offerte e c'erano i sottocosto per intendersi. Ah, e dove l'hanno aperta? A che altezza di via Valdetta? All'inizio, dove c'era la Cove, che prima ce l'è presente, per andare alla finanza lì all'inizio. Vabbè, via Valdetta inizia dall'altra parte, però all'inizio di solito da dove si passa dopo la rotatoria, appena fai la rotatoria te la trovi sulla destra. Sì, ho capito, e in via Valdetta ci abitava nonna proprio all'inizio, ho capito. E quindi già so perfettamente dove è. Sì, e non sapevo che avesse aperto la Conad lì, perché lì ci passo spesso in macchina, e quindi magari se trovo parcheggio mi fermerò anche io, perché io solitamente alla Conad vado qua in via Gramsci, che da qui da casa mia è più vicino, però lì passo rientrando da lavoro molte volte, capito, oppure salendo da Predanieta, capito, passo sempre da lì. Ho capito. Sì, hanno aperto oggi, non è che c'è da tanto, c'è l'inaugurazione oggi. Ho capito, infatti non lo sapevo, la Conad piano piano si sta prendendo tutto. Vabbè, prima il territorio era della Sisa, poi la Sisa è andata come è andata e si sono messi Conad e CRAI adesso, che si fanno concorrenza. Esatto, poi c'è quel Carrefour Express, quei negozietti, però sono carucci quelli, fanno le offerte di qualche cosa, ma se non hai la tessera non ti fanno gli sconti, capito? E quindi ci vado poco e niente da quelli. Sì. No, io mi servo qualche cosa, la CRAI prendo, poi di solito vado qui da Ronaiso vicino a casa, tu mi dirai, ma lì tutto caro, poi vicino a casa e tante volte non ne ho voglia di andare da altre parti, poi tanto quello che lo risparmi in altre cose ce lo metti in benzina, poi lasciamo perdere. Sì, che capita, l'altro giorno per dire ero con un'amica, siamo andati alla Lidl, c'erano questi mandaranci, ma buoni, se l'avessi saputo ne avrei preso molti di più, ne ho preso una bustina e non erano manco cari, non erano manco 2 euro, era 1,30 euro, una cosa del genere, ma dolci, buonissimi. Sì, anche io spesso mi capita di andare alla Lidl. Allora, 3 giorni fa stavo cercando uno sgabello di quelli che quando fai i lavori, capito, ti servono perché hanno le ruotelle, ti sposti, capito, anziché stare inginocchiato stai seduto in basso. Addirittura questo sgabello poi lo puoi stendere, quindi se ti devi sdraiare, anziché sdraiarti nel pavimento, questo sgabello si mette tutto piatto, 19 euro l'ho pagato, 19,90, una figata, l'ho usato perché mi stavo cambiando il lavabo del bagno che ho cambiato il mobiletto, l'ho preso nuovo e cavolo, inginocchiato, ero 2 giorni a mal di ginocchia eccetera, perché insomma non è che sono un ragazzino e non faccio i lavori tutti i giorni, e allora infatti era venuto mio figlio a aiutarmi e mi ha detto, ma perché non ti compri di quegli sgabellini eccetera, e io ho detto, appena lo trovo, neanche a farla apposta, siccome c'ho l'applicazione della Lidl, guardo, c'era quello, sono andato, me l'ho comprato, però alla Lidl che c'è qua nella zona Luna e Soli, vicino a Via Gra, vicino al Querotto, diciamo lì, non c'era. Invece sono andato alla Lidl di Predanieta e lì ce ne avevano da buttare, non ho capito perché una è diversa dall'altra, capito? Là a Predanieta è più grande, forse portano più articoli, magari c'erano per quello, capito? Io ieri, quando sono andato, ho preso quei mandaranci, stavamo girando e ho visto questa felpa praticamente col cappuccio €4,90. Bellina, veramente color aviazione, me la sono comprata. E ho detto, ma se, anche se fa un doppio esagio, €4,90 non sono niente. Invece è bella e anche calda, perché me l'ho messa senza il giubbotto per andare a portare il cane, e tiene caldo, c'è il cappuccio, c'è tutto qua. Bella, con la scritta dietro, bellina. È fatto bene, anche io ci vado spesso. La frutta anch'io l'ho presa tante volte ed è ottima. Loro portano anche d'estate l'anguria, adesso non mi ricordo, perla nera, che è ottima quell'anguria, dolce dolce. Quando devo prendere l'anguria io vado sempre alla Lidl d'estate e non sbagli mai, ne prendi 10, tutte 10 buone, capito? Quella marca è eccezionale. Sì, perla nera qui è conosciuta. Sì, la frutta, me l'ha detta che questa ricavia, che praticamente se tu vai presto trovi frutta bellissima, poi magari se vai dopo 2 o 3 giorni trovi un po' lo scarto, però solitamente è bella la frutta perché la vendono subito. Sì, ma già ce n'è in abbondanza, però, visto che ne portano parecchia, e infatti stanno facendo un sacco di incassi, capito? È sempre pieno, sia questa che c'è qua vicino, diciamo, all'acquedotto di Sassari, dai. E poi anche quella di Predanieda, quando sono andato qualche giorno fa, era strapieno di gente, capito? Sempre, comunque, articoli buoni, anche io ci compro tante cose lì, dalla frutta, come hai detto tu, magari qualche pantalone da lavoro preso, ottimi, che hanno più tasche, capito? E, insomma, spendi poco, a volte prendi bene. Sì, c'è diversa roba, anche il latte è quello ad alta digeribilità, era in offerta ieri. Infatti questa amica mia è andata per il latte, mi ha detto accompagnami lì che devo andare a prendermi il latte, poi ho trovato altra roba e ho speso anch'io. Già va bene. Ci sono diverse opportunità, solo che ti tocca uscire con la macchina, capito? Perché poi quando vai lì inizi a prendere e poi non sono vicini e quindi ci devi arrivare in macchina. Ma a me a volte mi viene di passaggio, rientrando, andando a seconda dell'orario che faccio, esco un attimo prima e prendo le cose lì alla Lidl, quella di Predanieda. Noi abbiamo dovuto fare due viaggi perché ci ha preso quattro cartoni di latte da sì, e quindi poi c'avevamo la spesa e io prima ho caricato la spesa, poi sono tornato dentro e ho dato la mano a caricare la roba sua, perché ha preso quattro cartoni di latte da 16, e dove lo trovi a questo prezzo? Sì, esatto. Caspita, invece, parlando sempre di risparmi, quello che non ci sta facendo risparmiare è adesso il gasolio, che è quasi a 1,70 euro, è salito. A momenti costa più della benzina, roba da matti. Sì, il gasolio si è avvicinato molto al prezzo della benzina. Io vabbè vado a GPL, quindi a me non mi tocca, però la benzina la metto ogni morte di ogni pappa, solo per metterla in moto la macchina, poi vado sempre a GPL. Va benissimo, sono arrivato, l'ho tirata la strada di Alghero, sono arrivato sino a 200 con GPL, l'ho tirata apposta per vedere quanto tirava, me l'aveva detto che la Fiat tira di più a GPL che a benzina questa macchina. Sì, no, quello è buono, ma l'hai presa già di fabbrica così oppure il piatto ce l'hai fatto tu? Allora, questa l'ho presa dalla fabbrica così, invece l'Astra Station Vego che c'avevo l'ho fatto fare io, l'ho fatto fare da Gavino a Predanieda. Ho capito, sì, un mio collega lo stesso, sempre con le macchine ci risparmia un sacco di soldi, insomma, perché il prezzo del gas è decisamente inferiore, capito? E la macchina va bene comunque. Allora io ti faccio un esempio, quando andavo a benzina con l'Astra Station Vego facevo 4 volte al giorno Sassari Porto Torres, perché salivo a pranzo e poi riscendevo e poi risalivo di nuovo, facevo 80 km al giorno solo per andare a lavorare. quando arrivavo fine mese erano 350 euro che spendevo di benzina, a gas 135 euro, c'è la differenza. E caspita, già lo credo. Sì, sì. E vabbè, tutti i costi, io ovviamente ancora ne ho da andare a lavorare, capito? Quindi sto usando il diesel, capito? Sempre avuto per il lavoro macchine diesel, però tra il diesel e la benzina c'era una bella differenza, quindi potevi risparmiare. Invece adesso hanno aumentato le accise, hanno aumentato tutto, capito? E di colpo da 1,56 che lo trovavi, adesso è salita a 1,69. 1,9, 1,70 praticamente. Non ho mai pensato di prenderla a gas la macchina. No, no, a dir la verità no, perché magari dicevo puoi andare a fare il pieno, mi tocca uscirci più lontano, qua e là, eccetera, e quindi mi aveva un po' scoraggiato quello. Poi, sai, quando l'abitudine è dal diesel passavi a un altro diesel, capito? E quindi, ma ormai questa spero che mi duri altri 5 anni a finire di lavorare. Adesso tra altri 14.000 chilometri gli faccio fare il tagliando, perché ti esce sul computerino di bordo, guarda che stai finendo i chilometri, poi non succede niente, se finiscono, capito, non è importante che i livelli dell'olio siano alti, anche se poi l'olio ce lo devi cambiare, filtro dell'olio, filtro dell'aria, insomma tutti i controlli. A messa a punto io la faccio una volta, circa una volta all'anno, in base ai chilometri che fai, capito? Però penso che adesso gli avevo fatti i freni nuovi, la distribuzione, e così ogni tanto metto a posto qualcosa e spero che la macchina così mi accompagni piano piano sino a finire di lavorare senza dover cambiare macchina, anche se poi diventerà sempre più vecchia, non me ne frega niente, tanto poi una volta vado in pensione per la città mi prenderò una macchinetta piccolina e non me ne frega niente, mi prendo una Panda, qualcosa del genere, anche benzina, tanto per fare due commissioni e due giretti già va bene già. Io Carlo questa qua l'avevo comprata in previsione che dovessi viaggiare quattro volte, quindi mi serviva una macchina che avesse un motore che ti desse garanzie, dai. E praticamente invece poi mi hanno dato l'orario continuato, ho fatto l'orario continuato e poi dopodiché sono andato diciamo in pensione e per questione di malattia mi hanno fatto andare diciamo con la IO e niente, e quindi mi è rimasta questa di macchina, se no mi avrei preso, a me bastava una 500, non me ne frega niente, tanto io per quello che la uso la macchina, la uso solo per andare a fare la spesa, per fare le commissioni, queste cose qua, quindi non è che vado lontano, qualche volta vado a prendere Marco quando va fuori alle feste, deve rientrare e vado io a prenderla. Esatto, sì, per le commissioni, per la città, insomma, basta anche una macchinetta a benzina piccola, oppure ci sono quelle, diciamo, ibride che hanno, diciamo, la messa in moto, ce l'hanno a elettrico, hanno una piccola batteria e poi, insomma, ti aiuta a risparmiare anche quando vai a marce basse, capito? Anche la Panda lo fa quel motorino lì, capito? E va bene, consumano poco, sono pratiche, anche per il parcheggio, perché non sono lunghe, capito? E allo stesso tempo le hanno anche sollevate le macchine, non si è più seduto per terra. Non so, ma a me le macchine elettriche non mi ispirano tanto, dico la verità. Basta dire che da quando hanno fatto queste macchine elettroniche che hanno tutti i computer di bordo e cosa, hanno mille problemi, ogni tanto si accende una spia, questo e quell'altro. Prima non succedeva mai una cosa del genere, prima li facevi il cambio dell'olio del filtro, io c'avevo il 127 e l'850 ho avuto la 500, che erano macchine che erano i treni, camminava, lo mettevi olio, benzina e via. Esatto, sì. Ma stasera io sono, diciamo in così in relax qua seduti in scrivania col computer, e niente, un'oretta fa c'era Gianni collegato con me, abbiamo parlato con Daniele che era ad Infini, lo sentivo basso basso, comunque già lo sentivo, e poi ha chiuso Daniele e siamo rimasti a chiacchierare una ventina di minuti, e lui stava provando l'antenna, adesso ha detto che ha rimesso sul tetto la come si chiama, quelle boomerang, e dice che già sta andando bene, comunque la radio, il segnale era buono, capito, quindi qua mi arriva molto bene. Eh sì, perché l'ha messo in mano, l'ha aggiustata perché dice che era piegata, l'ha scesa e l'ha rimessa, sì, no, ma è sempre andato bene con quella boomerang, arriva forte anche a Porto Dottore, da tutte le parti arriva con quella boomerang, è buona con l'antenna. Vabbè, è questione anche di posizione tante volte la posizione, perché le boomerang solitamente sono direzionali come antenne. Sì, infatti gli ho detto, ma se ti trovi bene tieniti quella, ha detto che quando c'era la propagazione anche lui ha fatto anche qualche collegamento e quindi qualche piccola soddisfazione, dice se l'è tolta, ho detto allora se ti trovi bene con quella tieniti quella e non stare lì a cambiare mille cose. Forse gliene aveva prestato una da provare Marco, però dice che l'ha provata, non ha notato notevole differenza, quindi ha ripiazzato la sua, magari l'ha messa a posto, e l'altra la penso che l'abbia restituita a Marco. Ho capito, vabbè. E tu quando la piazzi l'antenna grande? E io è che voglio entrarci piano piano, capito, appena c'è l'occasione buona, capito, tipo chiacchierando magari qualcuno che mi dice perché sul tetto qua non si vedono, allora ci do un'occhiata io eccetera, se mi fai passare vediamo cosa c'è, così vedo prima di tutto se c'è il posto per metterla, dopodiché una volta che è così chiederò appunto, dando tutte, infatti stasera ne stavo parlando con Gianni di Profeta, capito, di questa cosa, ho detto perché la gente è molto diffidente, se tu dici devo mettere un'antenna, ma non è che qua le radiazioni, qua siamo circondati dalle antenne ripetitori, capito, però la gente quando è così diffidente e poi hanno interferenze, invece ormai col digitale terrestre, capito, è una cosa completamente diversa, le note sono frequenze classiche in AM, in FM, quindi disturbi non TVA, insomma non se ne arrecano più, capito, quindi appena avrò la possibilità spero di riuscire a piazzare qualcosa sul tetto. Io ti capisco, perché per mettere l'antenna sul tetto ho dovuto fare una lotta, lettere al condominio mi rispondeva, mi ha scritto che l'autorizzazione me la dava solo se firmavano tutti i componenti del condominio, ci ho dovuto passare casa per casa per farmi mettere le firme, e hanno messo, sempre ammesso che non disturbi, perché se no bisogna praticamente prendere provvedimenti se disturba eccetera, e mi hanno messo tutti una firma, però ho lottato, la chiave non me la voleva dare il capo condominio, ma dove c'è scritto che le devo dare la chiave, come dove c'è scritto, io gli faccio venire le scomposte, sono andato alle scomposte e mi hanno detto se non gliela fa mettere chiami a noi, non c'è problema. Allora eravamo praticamente anche protetti dalle scomposte, perché pagavamo la tassa, quindi ci tutelavano, ma adesso e poi quando l'ho piazzata disturbava, ecco, non lo sapevamo che disturbava, però perché disturbava? Perché l'antenna era fradicia, hanno chiamato un tecnico, mi ha misurato i watt, naturalmente l'ho messo in omologato il giorno che è venuto, e usciva con 4 watt, quindi ho detto no, non è il baracchino, non può essere, è salito su, come ha toccato l'antenna era fradicia, è caduta in terra, il pezzo che ha toccato è caduto, dice io non credo che disturba, l'antenna qua non ce n'è, è tutto fradicio, vuole cambiare l'antenna, come ha cambiato l'antenna non ha più dato problemi. Esatto, è appunto questo, perché la gente, siccome sa che c'è l'antenna, e dà la colpa a te, capito? Il problema è quello, e la gente così non capisce che insomma noi le cose le facciamo bene, e quindi piazzi un'antenna, la isoli, la allontani, se possibile anche dalle altre, capito? Non ce la metti vicino, c'è la sua discesa del filo, qua è tutto a norma, non è creare disturbo. Io ho avuto in passato una radio che emetteva delle onde spurie ed entravi sulle casse dei computer nel condominio, però ero convinto che fosse l'impianto d'antenna, invece un piffero, era la radio, era quel tipo di radio. Ho fatto fuori quella radio, l'ho venduta, l'ho messa a posto, capito? Come avevo cambiato radio, finiti i disturbi, ed era proprio quel problema lì delle spurie che causava la radio, capito? E poi alla fine, insomma, è che sono dovuto andare via, poi già sai la mia questione, capito? Se no là ero in una bella posizione, e con quell'antenna che avevo, insomma, arrivavo un po' forte dappertutto, fino ad Alghero, già lo sai. Però adesso spero prima o poi di riuscire qua a fare breccia, armare di santa pazienza. Per adesso così già sta andando benino, dai, non è che mi posso lamentare. Per fare quattro chiacchiere già va bene, già. Ma guardi che vuole entrare. Se mette la portata e poi non entra. Buonasera, già mi senti? Via, ciao. Ero io, forse hai sentito lo spinotto della cassa. Perché sto provando il 3009, perché era un bel spento, non so se mi ascolti bene, boh. Ciao anche a Carlo, avanti già. Avanti Carlo. Quanto hai parlato in due già, cosa hai detto? Ho detto ti ascolto bene, Lu. Avanti Carlo. Sì, no, non ero io che ti ho sovrastato nella modulazione, forse qualcun altro. Ciao Luca, buonasera, già stai uscendo bene qua, sempre fondo scala. Sì, allora aspetta, anche lo sento un po' strano, non so già, o sono io. No, io lo sento chiarissimo. Tipo, come ti posso dire, non dico fuori frequenza, sembra una via di mezzo tra FM e AM. No, sei tu Luca, io lo sento chiaro, proprio, glielo ho detto anche poco fa che stavo uscendo perfetto di radio, che era proprio bello forte e chiaro anche. No, io lo sento bene, sicuramente è il tuo che magari è un po' fuori frequenza come raffermo. Ma se te ti ascolto chiaro, prova Carlo. 1, 2, 3, prova, io sono adesso attaccatino, adesso provo a attaccare e vediamo se mi senti meglio. Forse male perché siamo troppo vicini, capito? Guarda adesso questo passaggio. Fai il passaggio di nuovo. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Adesso sei perfetto. E allora era quello, forse troppo vicini e quindi Gianni un po' più lontano di te, capito? E quindi magari lui mi sentiva bene per quello. Brecco! Avanti! Buonasera a tutti. Io poco a poco lo sentivo strano un po', Perché se già lo sentivo bene, allora lo sentivo un po'. Tipo. Neanche spostato di frequenza, tra una via di mezzo, tra FM e AM. Comunque l'ascolto bene adesso, dai. Questo la fermo da un bel tempo, Mi sa che stacco l'altro e attacco questo. Lo faccio andare un po', perché penso che i condensatori si scaricano. È voglia che si scaricano, se perdono sì, se hanno perdita si scaricano. E io nel garage l'ho lasciato un po' di mesi fermo, quando l'ho acceso il frequenzimetro non si accendevano più le ultime due lettere, e poi come l'ho acceso e l'ho usato non l'ha più fatto. Tanto bene mi ascolti, sì? Benissimo. Ok, da. Andare avanti Carlo per Antonio, se non si è ascoltato. Invece Antonio l'ho sentito cupo. Come cupo? No, io no, perfetto. No, io l'ho sentito cupo. Bravo per adesso, ma vabbè, sono coricato, non è che... Buonasera. Io quando sono arrivato qua, detto, ma che domani ci vuole l'antenna, non da risare. E messa l'abbiamo. Quando sono rivenuto qua, che non c'era più mio padre. E da allora è sempre sopra. Ciao Antonio. Ah, no, non ho capito, cosa hai detto? Chi ha detto cosa? Nessuno. Quando sono venuto attorno io qua a Latte Dolce, che sono rivenuto a Latte Dolce, ti ricordi che prima era via dei Corsi, ero? Passasse a Riveccio. Quando sono rivenuto qua, la prima di ha detto mica c'è il buon antenna, a me non voglio intendere in nuba a me. Vabbè, non metti, non c'è problema. Ah, ecco, non stavo capendo. Eh beh, certo. A me non me la fatti nuda, eh. Vabbè, a tu, uno lo sa per non avere problemi con i condomini, se vede che c'è gente contraria, tante volte si evita. Io sono andato qui in punta di piedi, sono riuscito la stessa a metterla senza fare prepotenza né niente, l'ho messa. Qualcuno mi ha accusato che non ho rotto l'antenna al televisore io apposta per metterla nuova, dice non è che se sali tu e l'hai troncata tu per metterla nuova l'antenna. E vai, le ha sacco di raccolare a fianchi, l'abbiamo detto, vai. No, io ho proprio usato la prepotenza, il domani sono comunendo l'antenna, è mudi. Me. Avanti. Ciao Gianni, ciao Antonio. Per un po' di giorni sono stato perché dovevo trasferirmi, avevo un po' di spese, eccetera eccetera. Sono stato con la boomerang, vi ricordate? E ci sono formato tenuta a me. Chissà boomerang c'era una bombetta. C'era. Che poi ne avevo una via dei Corsi, l'avevo data a Luca, l'avevo data a te. Ti ricordi? Quando ero a Santa Maria di Pisa, ragazzi, uscì una bomba, arrivò un bel forte. Poi, qua me ne sono dovuto comprare un'altra, perché era un periodo che c'era un po' di spesa, come era rivenuto. Dopo un paio di mesi, mica mi sono comunendo la antenna, mudi puro. Non me la frega niente a me. Io mi ricordo quando c'è il manganello, tu, in Sant'Enna che mi un manganello. Ah, ma che non che era una briga, che andava. Carlo, va. Ciao Antonio, prima ti ho salutato, ma magari non mi avevi visto. Carlo. Già va bene la tua adesso, già va bene Antonio. È entrato anche Gianni, aspettate un attimino. Gianni, sì. Ciao, prof. Penso che è entrato io. Ciao, Carlo. Ah, mi sembrava Gianni con Bruffetta, ciao. Allora, già esco bene in radio, sì. Sì. E io poco fa sono tanto, ciao Antonio, ciao Gianni, poi lo so che c'era anche Carlo, comunque ciao anche Carlo. E a te in quei cipressi come ti arrivo Carlo? Già arrivi bene qua, radio. Ora questo pirla che mi si mette a splatterare il canale. C'ho un 7, capito, c'ho un 7 pieno. Radio e ti ha coperto Antonio, perché mi hai schiacciato a Carlo? No, non ce l'ho con te, no, è un pirla che sempre, non è avuto niente, mi regalare cazzo, un vicino, sempre a splatterarmi. Chi ti sta splatterando? Che a Riva Delta c'è poche persone, mi. C'è Torre Squalo, c'è Giovanni e Figaro, e Emanuele non pensa che va a Tennino. Vabbè. Comunque già, la schiacciata è già in forno. Schiacciato? Schiacciata di patate. La pastella prima zero, e poi formaggio sopra, parmigiano reggiano, esce un po'. Andave. Avanti Luca. Aspetta, sto conservando questo baracchino già, che era quello digitale. Attacco la staffa, riprendete un attimo, arrivo subito, dove ci devo da mangiare il cane anche. Andave. Avanti che tocca, Antu, tu ci sei tu? E tu cosa prepari stasera, Antu? E cosa vuoi fare? Il papà, cosa vuoi fare stasera? Non va giù macchina, quindi. Ah, io ce l'ho pronta la cena. Ma se devi fare la spesa, chiamami, vengo, ti prendo e andiamo, non c'è problema, mia. Cosa c'è la macchina, Antu? E qui c'è di volta da Ruggiamo, mette tra di mezzo alla prigione e mi ha fatto un casino. E la tenda itile, la tenda. Ah, mamma raga. la pressione non va nulla, che cioè la, andata, c'è centrato lungo il metro, ha fatto un casino, faceva slittare la frizione normale. Ma io sono sicuro che se cambi le guarnizioni lì riesci a risolvere tutto, non c'è bisogno di mettere il cambio nuovo. No, bisogna aprire il cambio perché ci vuole il paraolio, ci vuole sicuramente, tu ti non fare da bene, io secondo me se dimentico aprirlo, se ne troviamo un altro ci mettiamo sotto.